a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti ragazzi, ora finito il mercato rimangono i conti da pagare, preparatevi tutte le domande più difficili che avete sul fronte mercato, conti, bilanci, sbilanci, plusvalenze, eccetera, perché c'è Marco Bellinazzo dal Sole 24 Ore, quindi non temiamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Non temiamo niente. Beh, qualcosa non temiamo dagli ascoltatori, bisogna sempre temerlo perché sono molto preparati i nostri. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Io bene. Tu? Tutto il Bellinazzo, tutto bene, alla grandissima. Alla grandissima. Allora, da sto mercato c'è chi è uscito contento, Hernanes. Mi attrae sicuramente la grandezza della Juve, la capacità di ogni anno continuare a vincere. Io voglio essere uno di questi diciamo, pilari, colonna, non so, per costruire ancora una Juve vincitrice. Non so quanto i tifosi interisti e quanti i tifosi interisti siano approvino questa mossa, l'ho già chiesto, lo rifaccio, questa mossa di dare Hernanes alla Juventus, memori di alcune vicende del passato. Non sto parlando di questo canale che si è riaperto dopo molti molti anni, questo canale di comunicazione tra l'Inter e la Juventus. Dal mercato c'è anche che è uscito arrabbiato Eder. Ieri, a parte le due ore di allenamento, ho passato tutto il tempo al telefono e quindi quello ci lascia un po' nervoso, un po', però come ho sempre detto, la società, ho sempre ero d'accordo con loro, abbiamo parlato, abbiamo deciso e quindi come ho detto, per il resto parlerò dopo la nazionale. Nazionale che è domani contro Malta a Firenze e il 6 di settembre, settimana prossima, contro la Bulgaria a Palermo. Infine, dal mercato c'è un amico di Bellinazzo che è uscito sbattendo la porta, Aurelio De Laurentiis. Ho chiamato anche Tavecchio e gli ho detto, dico scusami, a me sembra veramente, ma siete voi della Lega che avete voluto le 23? Ah, bene. Dico, benissimo, dico, allora questa è una cosa da rimuovere, questa è una cosa tra l'altro che io non riesco a capire. Noi possiamo dire, le negoziazioni devono essere concluse, ma mettiamo un notaio, mettiamo un organo che certifichi che la negoziazione si è chiusa anche a livello verbale ad una determinata ora. Io propongo il signor no di lontana memoria al mercato, Pier. Ma guarda, io non è che sia particolarmente amante delle regole, dei paletti, degli orari, figurati, cioè, è chiaro che qui c'era un accordo dove erano tutti d'accordo, l'espressione, quindi è un controsenso che non si sia concluso, però è pure vero che se non metti un paletto è l'anarchia, quindi sì. Io ti dico, capisco perfettamente il punto di vista della Prenti, che è deluso, quello di Ferrero che è deluso forse anche più di lui, quello del giocatore, quello di Zuni, però poi alla fine se c'è un orario, svegliatevi ragazzi. Ieri con Luca Marchetti, se fosse iniziata 3 ore prima la trattativa la chiudevano, non l'hanno chiusa perché tutti aspettano l'ultimo secondo e quindi 9 volte su 10 riesce a chiuderlo e una volta su 10 ti capita che non ci sono i tempi tecnici, sì. Quindi ripeto, mi spiace perché è ovvio che quando c'è una società che è il Napoli che è d'accordo, una società che è la Samp che è d'accordo, i calciatori che sono d'accordo, il fatto che la cosa non si concretizzi diventa un paradosso e un peccato, però è pure vero che ci sono pure le regole, se no veramente poi a me sinceramente importa pochissimo che Soriano sia andato a Napoli, non ci sia andato eccetera, mi diverte tutta la avrebbero dovuto imparare da un altro presidente del Napoli che proprio qualche giorno fa ha lasciato un'intervista ricordando una scena bellissima, una scena reale insomma relativa all'acquisto di Diego Armando Maradona quando depositò in Lega una busta vuota, poi andò volò a Barcellona a recuperare il contratto firmato e tornò intrufolandosi. C'è chi dice che l'usciere della Lega fosse napoletano, C'è chi dice, questo è un mistero che non è mai stato risolto. Poi ci ritorniamo su. Lì però posso dire, lì secondo me parliamo, cioè, su Maradona la provocazione è che anche se non ci costa niente le trovo la busta, sta pur di vedere giocare Maradona in Italia, penso che poteva essere qualsiasi cosa, non c'era prezzo, sarei anche andato contro le leggi, no, ovviamente sto scherzando, però ecco, sì, dovevano inventarsi qualcosa, dovevano svegliarsi un pochino prima, dai. Sì, certo. Senti, Marco Berinazzo, siamo tornati ricchi sfondati, 600 milioni spesi sul mercato dalle squadre italiane, seconde in classifica, anzi primi in classifica perché l'Inghilterra non conta. L'Inghilterra horse category non va per conto suo con delle cose difficilmente anche spiegabili. Beh, no, facilmente spiegabili nel senso che i loro contratti TV sono straordinari, nel senso che il prossimo prevederà incassi per 3 miliardi a stagione, quindi gli incassi totali della Premier potrebbero avvicinarsi ai 5 miliardi, cioè il doppio della Bundesliga e quasi tre volte quello della Serie A, ed è chiaro che drogano il mercato. Ma a dire che c'è un problema è stato Rummenigge qualche giorno fa, insomma, il presidente del Bayern Monaco, non dell'ultima squadra spagnola o italiana. È chiaro che sono fuori mercato. Noi siamo tornati a spendere, è vero anche che abbiamo venduto molto, perché nel saldo tra entrate e uscite siamo sui 50-70 milioni, insomma, mentre venduto molto e bene, secondo me. Molto bene, bisogna chiedersi se abbiamo acquistato bene. L'idea è positiva, cioè quella di tornare a portare dei giocatori importanti, giovani, di prospettiva, ma anche qualche nome che ridia appeal alla Serie A. In molti casi i nomi, come accade nel calciomercato, poi si sono volatilizzati, però qualche campione è tornato, qualcuno magari tornerà nelle prossime sessioni. È un tentativo di risveglio con tante incognite finanziarie, magari poi dopo anche perché le focalizziamo. L'impressione è che molti abbiano giocato al tavolo da poker, è un'immagine che abbiamo usato anche troppe volte. L'unica coperta è la Juventus, l'altra hanno giocato un po' al buio. C'è qualcuno che mi scrive: signor Berinazzo, ci spieghi il bluff il bluff Milan B. Ne parliamo dopo? È un bluff? Beh, non mi risulta, insomma, non risulta c'è un contratto preliminare firmato, ci sono anche dei tempi, devono arrivare a fine settembre, devono arrivare i soldi. Le ultime notizie, insomma, che ho dall'Asia, per quanto sia stato difficile, insomma, ad agosto avere aggiornamenti, mi dicono, insomma, che nonostante la crisi delle borse asiatiche, dovrebbe tutto sta procedendo secondo i programmi. La tabella di marcia. Non mi aspetto grosse sorprese. È chiaro che poi le trattative le fanno gli interessati e noi possiamo soltanto cercare di intuire il più possibile. Traffico. Lei il colpetto ce l'aveva sempre dato nei tre giorni del Condor, stavolta ce l'ha data all'inizio. È stato vicino a vincere. Passando gli anni, sì, i colpetti se ne danno sempre meno. Arrivederci. Tutti convocati. Tutti convocati. Per me, diciamo, per Henry Torino era sempre stata una specie di sogno nel cassetto. Una gioia unica, una gioia, devo dire, se faccio il paragone con la prima volta, con la prima promozione, questa è una cosa anche maggiore, perché è una promozione che arriva dopo 3 anni di grande fatica, dopo 3 anni in cui abbiamo provato a salire in Serie A con difficoltà. Credo che molti si aspettassero che saremmo arrivati fin qua, agli ottavi, superando un turno difficile come i sedicesimi contro l'Atletico di Bilbao, per di più dovendo vincere al San Mamés. Allora, ad Urbano Cairo, che è spesso graditissimo ospite a questi microfoni, non vorrei rubare molto tempo perché immagino sarà impegnato in torte, candeline, eccetera, per i 10 anni di presidenza. Terzo presidente più

e poi sto qua in mezzo alla gente, mi guarda tutti come un matto. Comunque, Kosovo! Ripartiamo contro me! Non lo so fare, dai, adesso faccio io. Si sono girati in quattro, insomma, faccio ancora un'immagine pubblica, sì, che pure mi pianita, insomma, ormai da vecchio. Mi raccomando, sì, maniaco, però insomma, no, no. E, posso dire una cosa al volo sul, sì, sulla, sì, prima, sì, domanda, poi lascio, sì, a Brinazzo, sì, che il tema però è quello che dice Cairo, cioè secondo me il punto fondamentale è il fatturato. Questo fatturato lo puoi ottenere in buona parte, lo ottieni con i diritti televisivi, e questo è il primo elemento, cioè la ripartizione dei diritti televisivi è fondamentale. L'Italia, lo sappiamo, è a metà fra l'Inghilterra e la Spagna, cioè l'Inghilterra è quella che ha la forbice più equilibrata, se non sbaglio, la Spagna ha una forbice enorme tra Real Madrid, Barcellona e tutte le altre. In Italia è una via di mezzo, però quello che dice Cairo è giusto, nel senso che se noi ci affidiamo al mercato, e il mercato ci dice che ci sono 14 milioni di tifosi della Juve, 10 milioni di tifosi dell'Inter, 10 milioni di tifosi del Milan e 800.000 o un milione del Torino, faccio per dirti, o della Fiorentina, è ovvio che il mercato ci porta inevitabilmente a dare molte più risorse alle 3, 4, 5 squadre top rispetto a tutte le altre. Anzi, devo dire che nel calcio poi il pallone è rotondo e questa cosa fa sì che delle volte si riesca a riequilibrare questa situazione. Cioè il fatto che il Torino riesca a fare quello che fa con un sesso del fatturato della Juve è clamoroso, è una roba che non sta né in cielo né in terra da un punto di vista nazionale. Quindi il punto vero è quello lì, al di là del fair play finanziario, il punto vero è la ripartizione delle risorse, dove l'Italia, devo dire che con questo ultimo contratto televisivo è tornata a livelli importanti, perché adesso noi, al di là delle polemiche che ci sono state, insomma, l'Italia è il secondo paese al mondo per diritti televisivi. Beh, è clamoroso questo risultato. Sì, cioè, certo. Noi adesso spetta ai giocatori. Adesso il paradosso è che la nostra crisi è tecnica, non è più economica, al di là degli stadi che fanno schifo. Ah, ma poi, beh, anche societaria, del... appunto, Piero. Ecco, però voglio dire, dal punto di vista delle risorse, noi oggi abbiamo tutti gli strumenti per giocarcela con gli spagnoli. Poi se non ci riusciamo è perché siamo più cari. Giusto, Brinazzo? Assolutamente sì. Due cose velocissime: fair play finanziario, vecchia maniera, nuova maniera. In realtà, quello che hanno fatto City e Paris Saint Germain in questo mercato, in particolare il City che ha speso oltre 200 milioni, insomma, soltanto per tre giocatori, un terzo di tutto quello che ha speso la Serie A, nasce dal fatto che hanno avuto l'anno scorso delle sanzioni, erano state posti dei paletti, cioè dovevano raggiungere degli obiettivi, e nel caso in cui li avessero raggiunti, le limitazioni a calcio mercato venivano meno. Evidentemente quei risultati li hanno raggiunti perché hanno presentato la documentazione che noi non conosciamo, l'hanno presentata alla UEFA, e quindi sarà data la possibilità di spendere. Ovviamente il monitoraggio continua, e il dubbio fondamentale su Paris Saint-Germain e City resta quello dei contratti con le società correlate, insomma con quelli che fanno parte della galassia delle due proprietà, che per cui i soldi da una parte della tasca escono e dall'altra entrano, e la UEFA dovrà ulteriormente monitorare. Per quanto riguarda i dirigenti, insomma, non c'è assolutamente trasparenza in genere su quanto guadagnino, tranne ovviamente quelli delle società quotate. Credo che per Marotta siamo intorno al milione qualcosa in più, ma questo insomma si trova sui siti poi delle due società, dove c'è una comunicazione della remunerazione dei dirigenti. Per le altre squadre insomma è molto complicato individuare il dato, perché non viene comunicato, comunque non è presente sui bilanci. Senti, ha parlato Ibrahimovic, ovviamente fa piacere sapere che ci sono diverse società interessate a te, ma se davvero mi vogliono prendere ne devo parlare con Mirolà, il mio agente, ha ripetuto. Sono felice a Parigi, ho deciso di rimanere al Paris Saint Germain, il discorso è chiuso, ma so che a Milano erano un po' disperati, ha usato questa parola Ibra. Milano è un mercato strano, è passato dai viaggi transoceanici di Galliani e del suo amico a trattare di nuovo con un altro vecchio amico, che è quello che fa riferimento a Ibrahimovic. È la confusione massima che ha travolto la società, e quella giornata insomma famosa in cui Congo Bia e Jackson Martinez non sono arrivati, ha lasciato degli strascichi. Io all'inizio del mercato, è una cosa che mi viene anche poi molto imputata su internet e sui social, avevo parlato di un mercato sontuoso per il Milan, quello che si prospettava, e dal punto di vista economico di fatto detto, è stato così, perché il Milan è la squadra che ha speso di più, c'è un saldo di oltre 70 milioni tra entrate e uscite in questo calciomercato. Non era moltissimo da vendere, ha speso 86. Sostanzialmente cioè, credo che si sia abbandonata la politica dei parametri zero e si sia andato sul mercato con un budget della Fininvest che era in 300-120 milioni, e questo più o meno è stato confermato. Chiaramente sui nomi i tifosi sono scontenti, anch'io mi aspettavo, al di là di Bacca, che comunque è un fior di giocatore che ha fatto vincere al Siviglia per due volte consecutive l'Europa League, mi aspettavo dei nomi più importanti. È successo qualcosa evidentemente nei rapporti tra Doyen, che doveva garantire l'arrivo di big e di giocatori di qualità anche a prezzi, diciamo, meno esosi. Questo rapporto, visto che Doyen e Lucas erano consulenti di Mr. B, si è rotto. Galliani si è trovato in difficoltà, ha avuto una sorta di diktat a non operare con l'apporto di Doyen, e ovviamente ha frequentato i soliti canali, i soliti noti, e purtroppo devo dire per i milanisti che i soldi sono stati spesi tanti, quindi dal punto di vista finanziario è stato un mercato, diciamo, sontuoso per quanto riguarda le uscite. Chiaramente ci si poteva aspettare di più sui contenuti, sui big, anche se alla fine sono convinto che poi sarà il campo, insomma, a dirci. Sì, ma secondo me quello un po', che un po' ingenerosa la valutazione del Milan, perché sono d'accordo sul fatto che non è arrivato Ibrahimovic, ma comunque è una squadra più organica, più completa, più razionale e anche più forte di quella dell'anno scorso. Tornerei, abbiamo un ospite, oltre a Paolo naturalmente, tornerei su quella storia che raccontava Marco Bellinazzo prima, la narrata anche Antonio Corvo, noto giornalista napoletano. Maradona arrivò come? Fino alle 20:50 del sabato, tratta con Juan Gaspar a 50 km da Barcellona. Si mettono d'accordo, ma che succede? Ormai il tempo era scaduto, come si va a portare un contratto a Milano, nella sede della Lega? Interviene Ferlaino con la sua magia, coinvolge emotivamente, non solo emotivamente, un poliziotto privato che il sabato notte faceva la guardia al palazzo della Lega, e gli consegna una busta vuota e gli dice: durante la notte sarà sostituita questa busta, arriverà una busta nuova con il contratto di un giocatore. Alle 5 del mattino Ferlaino consegna, fuori tempo massimo, consegna il contratto dell'acquisto del più grande giocatore al mondo, dando la parola d'ordine al metronotte che intanto era cambiato. Il gallo ha fatto l'uovo. Sarà banale, ma questo è l'aneddoto che poi ha consentito di scavalcare i vincoli, gli ostacoli burocratici e addirittura abbattere la barriera del tempo e portare Maradona a Napoli. Questa la conosce bene Pierpaolo Marino anche. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'ha già sentita, vero? Questa l'ha già sentita. Sì, sì, la conoscevo questa storia. E niente, è vera? No, no, è sicuramente vera, e poi Corvo non racconterebbe mai qualcosa che non sia la pura verità, e quindi è vera, così come non dimentichiamo che ci sono stati interruzioni dei termini di mercato all'epoca dei telex, con dei telex ci sono transazioni che sono state depositate nei termini attraverso telex e poi completate a chiusura avvenuta con il deposito dei contratti. Mi pare che una di queste è stata quella di Falcao, quindi di giocatori mica da ridere. Però c'erano, secondo me, dei presidenti che volevano fortemente quei giocatori, e quindi Paolo, in quei momenti perché si finisce sempre all'ultimo minuto? Perché si aspetta l'opportunità fino alla fine, perché è un gioco di incassi, perché la cosa di Soriano, voglio dire, a vederla, cioè, se il Napoli interessa Soriano, insomma, ci si vede alle 8 di mattina e 13 ore si riesce a fare, in 15 ore si riesce a fare, no? Sì, sì, io l'ho un po' ricostruita la vicenda, perché mi trovavo a Gazzetta TV quella sera a commentare le ultime ore di mercato, e la vicenda fa parte di quelle realtà romanzesche del mercato che ti intrigano, ti fanno fare una serie di interrogativi. In sunto, io penso che che non ci fosse una grande volontà delle parti di concludere la transazione, perché altrimenti quando c'è l'entusiasmo di fare, quando c'è quella voglia che ti spinge di portare il giocatore e del giocatore di venire, si superano tutte quelle diatribe, soprattutto quando si avvicini alla scadenza dei termini. Io in questo, a questo proposito ricordo che quando, dopo una lunghissima e complessa trattativa, sempre con lo stesso Ferlaino, questa volta era dall'altra parte, però, perché io comprai Jankulovski all'Udinese dal Napoli, il Napoli era in B, e in pratica fu una complessa operazione fatta di scambi con giocatori dell'Udinese più un cash che allora fu di credo di un 4 milioni e mezzo 5, e Ferlaino, che aveva bleffato fino all'ultimo momento tenendo alta la posta e non voleva scendere a quella che era l'offerta dell'Udinese, alla fine aveva i problemi di un Napoli che aveva bisogno assoluto di quel cash, di quella transazione, perché era il Napoli prefallimentare che poi in realtà fallì dopo qualche tempo, e era alla fine disse che firmava, si corse alla Lega, che mancavano 10 minuti alla chiusura, e Pavon, uno dei giocatori dell'Udinese, non riusciva o non voleva accettare il trasferimento, per cui c'erano delle lungaggini. Ferlaino si mise nella stanza della segreteria della Lega e non si muoveva da lì, dicendo: no, sono interrotti i termini, io sono qui, non si può far scadere, non esco da questa stanza, sono pronto, ecco i contratti, fin quando depositammo una decina di minuti dopo i termini. Quindi però lui era andato fisicamente ad interrompere i termini nella stanza della segreteria della Lega, mentre tutti erano al mercato. Meraviglioso. Ci fermiamo un attimo. Ritornando alla domanda, per completare, anche se mi dilungo un attimo, sì, però mi piaceva spiegarla. In realtà le società e le parti delle transazioni, cioè giocatori e due società, perché le transazioni si fanno in tre, ora entrano anche i procuratori, che sono poi un'altra variabile componente. impazzita, e una complicazione in più. Che cosa succede? Che ognuno pensa di tenere in scacco l'altro e fa il non curante di quelle che sono le tempistiche, ed ecco perché si va avanti fino in fondo. Questo per quanto riguarda gli ultimi giorni, e si va fino al tempo limite. Poi si sa che piace a tutti rinviare, posticipare, e non bastano 3 mesi, forse se ce ne fossero 5 lo stesso si farebbero all'ultimo minuto delle transazioni più importanti. Certo. Ci fermiamo un secondo per il traffico, per Paolo Marino, rimanga con noi, per Luigi Pardo, Marco Berinazzo qui, ascoltatori, a dopo. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Convocati. Io volevo chiedere due cose rapidissime a Pierpaolo Marino, ma anche a Pardo. È un argomento che è uscito ieri. È vero che i giocatori non ci sono giocatori che non vogliono andare a Napoli, big che non vogliono andare a Napoli, che Napoli è ancora non è ancora una delle mete preferite di grandi giocatori. Primo. Secondo, De Laurentiis non è al momento nella sua fase di massima popolarità. I tifosi del Napoli sono parecchio arrabbiati, hanno ragione oppure no? Beh, ripartiamo. Da te. Da me. Ma l'ha detto Sollazzo ieri, che certamente è un tifoso del Napoli, mi verrebbe da dire che se succede questo non sanno che si perdono, nel senso che poi se no il Napoli è un posto, e ci sono mille casi di persone che sono andate da Napoli, sono impazzite e non hanno più voglia di andarsene, per quindi da questo punto di vista magari un po' di etichetta becera ci può stare, o magari in certi casi semplicemente c'è il desiderio di una piazza un po' più tranquilla, ma più tranquilla dal punto di vista proprio delle pressioni. Napoli ovviamente Napoli è una di quelle cose che è sempre una grande squadra, nel senso che se anche va male, Pierpaolo e Berinazzo ce lo possono confermare, c'è anche 12esima in classifica, però comunque il clima che si respira è un clima di una città che vive 365 giorni all'anno per la squadra, quindi sei sempre in una grande squadra anche se i risultati non arrivano. Sì, e su De Laurentiis, De Laurentiis ha fatto, dipende sempre da che binocolo usi. Se usi il binocolo della fredda cronaca di questi mesi, un po' di delusione ci può essere. Se guardi e contestualizzi quello che ha fatto De Laurentiis in questi anni per il Napoli, dove l'ha presa e dove l'ha portata, e che società sta costruendo, beh, mi sembra che insomma sia un presidente che meriti un giudizio ampiamente positivo. Poi è chiaro che, ecco, per esempio la vicenda Soriano poteva e doveva essere gestita meglio, insomma, su questo dubbio. Sì, poi ha tentato di prendere Rugani, non ce l'ha fatta, sempre all'ultimo minuto, ha tentato di prendere Romagnoli che era già promesso sposo del Milan, eccetera eccetera. Secondo me ha una buona squadra davanti, fortissima, probabilmente non ha risolto i problemi nodo, che aveva. Il nodo che secondo me è ancora più del centrocampista è il centrale di difesa, perché Napoli dietro balla, l'ha fatto con Benitez, vedremo con Sarri, ma i primi segnali sono quelli. Sì, fammi sentire per Paolo Marino e Berinazzo sul tema. Sì, sono Marino. Sì, mi dica. Posso parlare? Certo. Sì. No, io conosco, penso, abbastanza bene Napoli per le mie due parentesi, quella del primo scudetto e quella successiva della rifondazione, dove sono andato in settembre quando il calciomercato era chiuso e il campionato di C era alle porte a ricostruire il Napoli. Parto da un concetto che è quello che non dobbiamo dimenticare, che Napoli è l'unica città metropolitana con una sola squadra in Italia, quindi non è una grande, è una grandissima, perché in ogni grande città italiana i tifosi si frazionano, gli abitanti di quel posto, in due squadre almeno. Pensiamo che ciò accade addirittura a Verona, che non avrebbe motivo di avere due squadre in Serie A per quello che è il suo bacino di utenza. Quindi Napoli è una grande squadra come seguito, come passione, perché non c'è alternativa alla rappresentatività della città. E quindi l'impegno di chi dirige il Napoli, soprattutto ai massimi vertici, quindi quello che è stato mio nelle vesti di direttore generale, ma soprattutto del presidente, è un impegno gravosissimo. E per quanto riguarda i presidenti, nella storia del Napoli non esiste un presidente che non è stato contestato, e ognuno di loro aveva dato, mi riferisco al comandante Lauro, ma soprattutto a Corrado Ferlaino, che in un periodo ha avuto le bombe carta nel giardino della sua abitazione. Quindi io credo che sia normale questo, perché l'aspettativa, la passione con cui i tifosi napoletani giustamente e impareggiabilmente seguono la squadra è grandissima. E poi della gratitudine nel calcio, diciamo, ce n'è poca. I giocatori possono pensare che, sì. Quanta gratitudine avrebbe meritato Ferlaino per gli scudetti che ha portato a Napoli. Bisogna fare sempre di più. Diceva un mio grandissimo allenatore del passato, di qualche anno fa, il calcio è sempre futuro. Se pensi di valerti del passato, sei fritto. E quindi è così, è una massima che io ricordo sempre. Ogni volta che archivio un successo professionale o della mia squadra, penso già a quale può essere il pericolo futuro, e così mi trovo bene. Sì. Grazie per Paolo Marino, grazie davvero, direttore. Grazie. Grazie a voi. Calcio liquido. Calcio liquido. Calcio liquido, eh. Ma c'è anche Benignazzo, non è mica scontento della campagna acquisti del Napoli? Beh, c'è stato un saldo di negativo di una ventina di milioni, quindi sono stati 20 milioni di investimento rispetto alle entrate. Il problema è che c'erano dei buchi tecnici nella rosa, e ci sono da 3 anni, non sono stati colmati. Quindi da questo nasce una certa arrabbiatura della tifoseria, insomma. Chiaramente veramente sono tanti meriti, tanti demeriti, insomma, dovremmo fare una puntata a parte, insomma, per parlarne, per cui mi fermo qui sul Napoli. Va bene. E ci fermiamo qui con questa prima ora insieme, ringraziando Marco Berinazzo del Sole 24 Ore, che naturalmente troveremo prestissimo, Pierluigi Pardo che troveremo domani da questi microfoni. Ti aspetto qui domani, Allora, se ha la pazienza di aspettarmi, riparto proprio da Ciro, da Napoli, che è in linea ormai da molti minuti, ma stia con noi, sentiamo il GR e poi torniamo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. la Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Convocati. Dunque, ho deciso di incatenare alla sedia per qualche minuto ancora Marco Bellinazzo, perché voglio assolutamente farmi spiegare un paio di cose sull'Inter e sulla Roma. Però c'è anche Francesco da Livorno, cui diamo subito la parola. Buongiorno. Salve, buonasera, sono Francesco da Livorno. Salve. Io non so se l'argomento è già stato toccato, ma mi domandavo, questi ormai famigerati diritti di immagine del quale a Napoli si parla in lungo e largo, ma in realtà di cosa si tratta quando si va a acquistare un calciatore, no? I diritti sportivi di un calciatore? Si tratta di tanta roba, no, Marco? È stata qualcosa di estremamente importante. Può essere tanta roba, dipende dal giocatore, lo sfruttamento pubblicitario della sua immagine, ed è chiaro che peraltro una società che li acquista deve dare più soldi di stipendi, perché ovviamente va a coprire anche il mancato introito. La cosa curiosa per il Napoli è che soltanto nell'ultimo bilancio del 2014 io sono riuscito a individuare una voce legata ai diritti d'immagine, e l'incasso era di 2 milioni, quindi una cifra non straordinaria, a meno che non sia poi spalmata in altre voci, ma non mi sembrava tale da meritare poi tutte queste complicazioni. Sì, ma poi ci sono anche comunque partecipazioni dei giocatori a campagne pubblicitarie, addirittura a film. Assolutamente. Il problema che si è posto con Soriano, al di là, abbiamo sentito prima, della mancata volontà magari del giocatore di andare al Napoli, è proprio questo, insomma, che il contratto che fa firmare il Napoli sono dei tomi quasi da libri universitari, con tante clausole che coprono praticamente tutto lo scibile dei diritti d'immagine e che vanno approvati, insomma, clausola per clausola. E chiaramente, se un giocatore tra l'altro non è presente, Marco Verciano, insomma, diventa lungo concludere quell'accordo dal punto di vista formale. Sono due squadre che hanno speso molti soldi, e sono l'Inter e la Roma tra quelle che hanno speso più soldi. Sì, di fatto quasi 80 milioni la Roma, e l'Inter è seconda in classifica dietro la Juventus, 100,2 milioni di euro. Sì, di fatto sono squadre che hanno speso molto nel saldo tra entrate e uscite. Quelle che hanno dato di più, insomma, più generose tra virgolette, sono state il Milan e la Juventus. Inter e Roma hanno fatto delle campagne acquisti, come dire, importanti per consolidare, nel caso della Roma, la conquista di un posto Champions, l'Inter per arrivarci, che sappiamo quanto sia importante per tante questioni. Chiaro però che hanno fatto una campagna acquisti molto giocata, insomma, con le formule giuridico-finanziarie, perché di fatto l'Inter, poi, se vai a guardare la cassa, cioè i soldi che entrano e escono su quest'anno, grosso modo, insomma, abbiamo un piccolo deficit, qualche milione, insomma. Poi tutti i dati sono sul mio blog, per chi avesse la curiosità di andare a leggere. La Roma addirittura è in attivo. Il problema è che molti di questi acquisti sono stati fatti attraverso formule come prestiti onerosi e obblighi, oppure diritti di riscatto, che in realtà sono obblighi, diciamo, travestiti da facoltà, da opzione, da diritto. In realtà questo significa che ci sono da qui, da un anno a due anni, tutta una serie, diciamo, di scadenze che verranno a terminare per il Milan, per l'Inter e per la Roma. Per l'Inter ci avviciniamo, insomma, ai 50 milioni per riscattare altri giocatori, per la Roma intorno ai 30. Avevano i limiti fair play finanziario, per questo hanno utilizzato queste formule, per cui non dovevano fare dei mercati in equilibrio. Hanno rimandato quindi il peso finanziario ai prossimi anni, sperando di andare in Champions e di avere le risorse per coprirli, insomma. Giacomo Valenti, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Marco. Sentivo con capito. Volevo che tu sentissi. Sei un giocatore di poker? Assolutamente, facevo i grafici, facevo tutte le mettevo come la notte della spesa, i più e i meno. Esatto. Saluto anche Pier, non so se è ancora in linea. No, Pier se n'è andato. Ma torna domani. Andato, okay. Torna domani. Senti, Giacomo, l'Inter è una squadra da adesso da mettere a posto sul campo, poi sarà da mettere a posto, come ci raccontava Marco Berinazzo, su altri fronti, perché ha giocato a poker, ma questo lo sapevamo già. Allora, me li prendo, poi ti do i soldi dopo, ma intanto spero di vincere la mano Champions League, se no sono nei guai. Carlo, intanto ti faccio i complimenti per l'attacco, cioè l'Inter è una squadra, poi secondo me forse potevamo fermarsi anche lì, cosa che prima invece non esisteva. Se uno fa un calcolo abbastanza veloce e va, perché se vuoi parlare in termini pokeristici devi andare a vedere anche la history degli avversari, no? Cioè, o comunque la tua personale classifica, devi andare a vedere a che cosa ha fatto Mancini ai tempi e con che formazione giocava Mancini ai tempi. Ora, al di là delle debite proporzioni, per cui ancora non abbiamo la concretezza e la verifica, però la struttura fisica di Vieira, Cambiasso, Stankovic e Zanetti portava indubbiamente un aspetto molto muscolare, cosa che si sta riproponendo adesso. Sì. Quando qualche tuo collega parlava di Mancini innamorato dei giocatori dei piedi buoni, forse dimenticava che in realtà lui ha sempre voluto giocare con giocatori molto forti, soprattutto nel centrocampo dal punto di vista muscolare, cioè che potesse dare massima copertura. Poi ai tempi c'era Ibrahimovic e Crespo, certo, e adesso c'è Jovetic, Perisic, gli Icardi, vogliamo, esatto, Icardi quando tornerà, insomma, per cui mi sembra sinceramente che quella sia la struttura di Mancini. Della struttura delle squadre di Mancini, e poi questi fedelissimi che vengono fuori in maniera, ora bisogna essere sincero, Filippo Melo, magari molti miei amici di cuore nerazzurro magari non sono contentissimi, però mi sembra che sia uno di quelli che ha sempre dimostrato dall'inizio dell'estate in poi di voler essere presente in questa formazione agli ordini di Mancini. Su questo mi sembra che sia una cosa poco contestata. Sì, io sono curioso di sentir parlare Mazzarri quando lo farà, quando tornerà a parlare, magari quando gli scadrà il contratto, perché lui per farsi comprare un giocatore doveva piangere in turco. Mancini deve avere un grande appeal, ha un grandissimo. Clamoroso. L'anno scorso quando arrivò Mancini io mi permisi tramite Twitter, il meccanismo con cui mi diverto particolarmente, di parlare di una nuova, o meglio alla fine della stagione, di salviamone due di giocatori, massimo tre, il resto cambiamo tutto, e venne fuori quasi una rivoluzione. In effetti Mancini ha fatto questo, cioè Mancini è riuscito a far vendere sinceramente anche molto bene personaggi come Shaqiri, come Kovacic, come lo stesso Hernanes, e poi a ottenere i giocatori che veramente lui voleva. A questo punto Mancini è chiaro che non ha nessun tipo di ma non voglio parlare neanche di scusante, cioè voglio parlare invece, ha messo la firma su una formazione che mi auguro possa essere da interista assolutamente protagonista quest'anno. Ma tu avresti dato Hernanes alla Juve? Sì. Sì? Sì. E se poi fa il Pirlo? No, allora sì, il no, Pirlo? No, quello è un altro discorso, ma era un altro Pirlo quello che è arrivato al Milan rispetto a quello che vagavano. Sì, ma anche il Pirlo che è andato dal Milan alla Juventus, sai. Beh, onestamente era più difficile privarsi di quel Pirlo che non di questo Hernanes. Io parlo sempre, mi diverto andare a vedere gli studio che gioca a calcio da piccolino, e loro ti insegnano sempre che ci deve essere un gesto, un qualcosa per cui si possa arrivare a essere indispensabili, no? Cioè i maestri di calcio vogliono sempre vedere un guizzo. Ora, onestamente, con Hernanes io di guizzi non me ne ricordo più tanto, mi ricordo la trasferta con la Lazio, ma così come Kovacic, cioè non mi ricordo partite clamorose vinte da sole da Kovacic, vinte da sole da... mi ricordo i gol sono d'accordo. Mi ricordo delle parate di Handanovic, proprio piacere, non piacere, ma secondo me Handanovic è un portiere che ti fa una decina di gol all'anno, perché quella palla la toglie. Poi, ripeto, ci possono essere momenti di amnesia, è normale. Di Hernanes non mi ricordo questo, al di là dell'aspetto affettivo, tutto quello che vuoi, lo stesso previsione di Kovacic, noi eravamo un pochino schiavi di questo giocatore, che onestamente ha avuto più occasione lui quanto non ne abbia avute io per dimagrire, il che è tutto relativo. Beh, peraltro i tifosi nerazzurri devono essere contenti, perché con le due cessioni l'Inter ha incassato quasi 50 milioni, insomma. Kovacic, ma scherzi, Kovacic ha 35 subito. Esatto, sarebbe stato clamoroso non investire questo, allora veramente ci sarebbe stato, secondo me, il rischio quasi di contestazione abbastanza pesante. E invece sono stati investiti, poi ripeto, sono state fatte delle scelte, come tutte le scelte è importante poi che uno si prenda la responsabilità e si va a vedere i risultati. Di solito nei paesi democratici succede anche in politica, ma vabbè, questo è un altro discorso. Giacomo, un'ultima cosa, i cugini come li vedi? Ma io sono estremamente felice che sia arrivato Balotelli, anche perché sì, l'avevo già sottolineato a Tiki-Taka, cioè se il rischio era Ibrahimovic, in realtà con l'arrivo di Balotelli mi sembra che già allora il rischio stava per diventare poco meno efficace. Mi sembra strano onestamente che Mihajlovic esca da una partita e chieda un centrocampista e gli prendano Balotelli, ma queste secondo me sono scelte in casa altrui. I derby non sono stati belli, quelli del precampionato, adesso ce n'è un altro, un'altra situazione. Secondo me se trovi un interista che non è contento in questo momento del campionato dell'Inter e che non sei contento di affrontare il Milan in questo momento, secondo me è falso. Poi dopo vediamo, insomma. Comunque il Milan ha comprato, secondo me Bacca e Adriano sono degli ottimi giocatori. Sì, Magnoli è stato un investimento forte, Bertolacci anche da un punto di vista economico. Poi dopo vedremo, io auguro di salute, gioia, felicità, amore, ma ovviamente no. Ovviamente non grandi vittorie, questo lo sappiamo. Grazie, esatto, Giacomo. Cioè, non avrei stima alla stessa maniera. Un abbraccio, Marco. Ciao, Giacomo. Grazie, ciao. Giacomo Valenti. Simpaticissimo, Giacomo. Molto. Senti, Marco, ti volevo chiedere ancora una cosa, ma i tifosi del Milan non sono contenti, gli stessi tifosi del Milan, però. Io non condivido i voti bassi alla campagna acquisti del Milan, non condivido tutte queste lamentele. All'ultimo momento si è cercato di prendere Soriano, non ce l'hanno fatta, ha cercato di prendere Vizzera, era un'operazione complicatissima che si basava sul solito meccanismo che mi dicevi, lo prendo adesso, pago dopo, però alla fine hanno portato a casa Romagnoli, che bisogna vedere, ma è uno dei difensori di maggiore talento in questo momento nel panorama europeo. Due giocatori che citava Ciccio Valenti, sono due signori attaccanti, e Balotelli è una scommessa che non costa niente. Il City ha preso Otamendi a 47 milioni, insomma, esatto, e quindi il rapporto che ha 27-28 anni, insomma, Romagnoli è un prospetto sicuramente migliore. Gli altri giocatori sono giocatori di qualità, Bacca ha fatto vincere, ripeto, al Siviglia due Europa League di seguito, si aspettava il grande nome, probabilmente arriverà, c'è, ripeto, un momento di confusione, ma in parte è spiegabile con la transizione societaria che sta avvenendo, tra l'altro dietro Frunce è stato anche sul portello, questo è come finisce il segno. Questa storia? Beh, lì si sta cercando un'altra area, si erano sottovalutati i costi della bonifica, come avevo detto, insomma, però quindi mi sembra ci sia abbastanza diatriba, no, tra sì, è questo un ulteriore problema che dimostra quanto sia necessario in questo momento dare una linea precisa alla società, un indirizzo netto, insomma non si può continuare con duarchie o triarchie quando arriveranno Mr. B e i suoi uomini, e quindi prima che si creino ulteriori ostacoli, insomma, alla gestione societaria, sarà bene intendersi su chi comanda e chi deve gestire e chi deve tenere i cordoni della borsa. Allora rispondiamo insieme a due ascoltatori e poi ti lascio, cosa dici? Assolutamente sì. Ok, Antonio, provincia di Chieti, e poi c'è Alessandro da Parma. Buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie per la convocazione. Hey, dica. Allora, io volevo dire una cosa a Pardo, però mi sa che non c'è più. No, torno domani. Vabbè, e poi volevo parlare del mercato della Juve. Sì. Visto che si parla dell'addio di Pirlo, Vidal e Tevez, io l'unico che rimpiangerà la Juve sarà Tevez, perché tutto l'anno scorso la Juve è andata meglio quando Pirlo si è infortunato con il Borussia Dortmund. E Vidal, ogni giorno c'era qualcuno che si lamentava che non era più lo stesso, il ginocchio non andava più bene, e adesso dicono quello che manca è Vidal e Pirlo. Secondo me la Juve. Guardi, le vedove di quelli che sono andati via sono tante, e soprattutto dopo i primi due risultati piangono a dirotto. Sono d'accordo con lei, nel senso che anche io l'unico che avrei provato a tenere era Tevez, ma più che altro per fare un anno di scuola a Dybala. Sì, bisogna dire che proprio su Tevez è stata determinante la volontà del giocatore. Cambio la Juve ha ottenuto delle opzioni non da sottovalutare su quattro argentini, in particolare su Vadalo, Vadalà, insomma, grandi prospetti su Vadalà. Addirittura c'è stato un investimento di 3 milioni e mezzo per il prestito e con un riscatto che è stato fissato a 9 milioni e 4, quindi cifre che segnalano già l'importanza del giocatore. E quindi è chiaro che la Juve è in una fase di rifondazione, ha vinto 4 scudetti di fila, si è ringiovanita. L'ideale per la gestione, diciamo, Marotta Paratici ora è porre le fondamenta per un nuovo ciclo. Magari quest'anno non si vincerà, sarà fondamentale andare in Champions, dare continuità a questo progetto, ma soprattutto, diciamo, ringiovanire la rosa senza aggravare il bilancio. E questo grosso modo, insomma, è stato fatto con operazioni anche molto intelligenti, come quella di Coman al Bayern Monaco, che se riscattato potrebbe fruttare quasi 30 milioni. Poi c'è il tesoretto. C'è quel tesoretto che non è stato toccato. Che non è stato toccato, e che è sempre lì, insomma, in caso di necessità. Sì, anche se sono ovviamente rimbalzate dall'Inghilterra cifre assurde, tipo 125 milioni offerti dal Chelsea, ma tanto questi qui non riesce ad arginarli. Poi De Bruyne lo danno via, lo riprendono a 74 milioni, poi non gli serve più, lo prestano in giro. Il Chelsea ha 33 giocatori sparpagliati in prestito per tutta Europa. Quindi con questi non puoi ragionare, puoi andare al massimo al discount quando non li vogliono più e prenderli. E cercare di fare buoni affari. Certo, ci riesci. Alessandro, Parma. Sì, pronto, mi sente? Sì, dica. Pronto, sì. Guardi, intanto volevo ringraziare e farvi complimenti, questa è una trasmissione veramente fantastica. Grazie. Volevo fare un intervento, però è fuori tema, nel senso che volevo intervenire per l'intervento del presidente Cairo, quindi sì. È passato un po' di tempo. No, semplicemente da tifoso del Parma volevo semplicemente puntualizzare, siccome lui giustamente, e gli faccio i complimenti, perché ha fatto una squadra tra l'altro con un bilancio positivo e molto competitiva, però nel raccontare gli ultimi suoi campionati si è riempito la bocca del fatto che ha conquistato l'Europa League. Volevo sinceramente puntualizzare che l'Europa League l'ha conquistata perché il Parma ha avuto la penalizzazione che si meritava. Ma sul campo non l'ha conquistato il Torino l'Europa League, l'ha conquistato il Parma che gli era andato davanti, quindi sì, era solo cioè anche, ma la puntualizzazione è cronaca, questa è cronaca, però anche il rispetto delle regole rende una squadra più competitiva o meno competitiva, no? Assolutamente, c'è la sostenibilità finanziaria. Bravo, dei progetti bravo, sportivi. Marco, la sostenibilità finanziaria è fondamentale per tutelare gli stessi tifosi, perché ora purtroppo i tifosi parmigiani dovranno, insomma, ripartire dalla Serie D con un nuovo progetto interessante, con degli imprenditori, ci sarà anche qualche forma, diciamo, di partecipazione popolare, però insomma, se va bene, dovranno aspettare 3 anni prima di tornare sul massimo palcoscenico, certo, calcistico, certo, nazionale. Marco, grazie. Grazie a voi, a prestissimo. Saluto e ringrazio Jacopo Lo Monaco che ci racconta per Eurosport, ci sta raccontando, appena iniziata la fatica, gli US Open. Ciao Jacopo, grazie. Grazie a te, ciao Carlo. Ciao, come li vedi, come li leggi dopo le prime battute, dopo i primi scambi? Poi ti dico chi è il mio idolo attualmente. Ma sinceramente mi sembra che i due favoriti d'obbligo, Djokovic e Serena Williams, siano ben avviati. Il fatto che ci sia stato costruito in costruzione il tetto ha annullato un nemico di Djokovic, ma anche di Federer, ovvero il vento. A detta di entrambi non ci sono più quelle folate molto fastidiose che rendeva complicato comunque riuscire ad esprimere il tennis migliore proprio sulla Flash Stadium, ed è stato per esempio secondo me il motivo principale della sconfitta di Djokovic nella finale 2012 con Andy Murray. Quindi insomma, credo che Djokovic possa fare il tris come l'ha fatto nel 2011 vincendo un terzo slam quest'anno. A proposito di Murray, prima ho visto le immagini della sua partita contro, ti dicevo, il mio idolo Nick Kyrgios. Sì. Kokkinakis è andato a letto con la tua fidanzata, mi spiace dovertelo dire. Questo ha detto Nick Kyrgios, che ieri si stava addormentando sulla sedia del cambio. L'ha detto a Wawrinka al Master di Montreal. Questo è veramente matto. Australiano. Chiaro. Io vorrei sapere una cosa, ma c'è andato a letto mentre stava già con Wawrinka o prima? Prima, durante o dopo? È fondamentale, giusto? E poi Kyrgios ha detto: ma stava diventando insolente nei miei confronti, e mi è partita quella frase lì. Ne è nato un discreto polverone con una sanzione poi che sconterà eventualmente sotto pena condizionale. Esatto. Però se mi sembra nei prossimi 6 mesi allora viene cancellata la pena. Però mi sembra un bel personaggino, al di là della testa alla Balotelli, o no? Sì, sicuramente è uno molto sicuro di sé, anche arrogante nei confronti degli avversari, non ha grande rispetto e non importa chi ci sia dall'altra parte della rete, perché a Madrid con Federer si è comportato come fa, per esempio, contro un Ramos piuttosto che un Carreño. Quindi sì, è qualcosa di nuovo che non si vedeva da tanti anni, a molti può stare antipatico, vediamo se... Se diventerà così tennista, oppure sì, se invece gli faranno passare la voglia, perché non è semplice poi giocare e avere tutti contro e con tutti che ti vedono non vedono l'ora che tu perda, perché insomma sono stati più che altro gli altri giocatori a far sì che l'ATP entrasse in tackle duramente su di lui dopo Montreal. Certo, non è facile reggere il personaggio. Grazie Jacopo, buon lavoro, sarà lunga US Open su Eurosport. Ciao, grazie Jacopo da Monaco. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Ciao, grazie, sei molto gentile.